Viva di cocaina, Ma che schifo! Cazzia, assolutamente! E di mezzo chi c'è? Quello che lavora, se c'è la notizia, Brumotti. Allucinata, di che ammazza la ghiccio. Secondo te faccio buttare i proiettili. Pure lui si sta mettendo nei guai. Però anche la stessa giustizia però dovrebbe fare qualcosa, perché io quando è domenica ho visto una ragazza che la verità siamo coetanei e tutto, da quando ci facevamo bambini, ci sono rimasto parecchio male. È un zombie vivente diventato. Non, veramente, no, non è possibile che giri ancora nel 2022 che gira ancora questa ignoranza. E poi siamo dei drummi tanto. No, sono andato un attimino da Sara che non sta bene. Come sta? Cosa c'ha? Vabbè, ma come cosa c'ha? Come sta? Mal di pancia. Sì, un po' la camomilla tu. Oppure se è troppo forte ci prende un antidolorifico. E se lo dico un trudio, già è basta. Ciao Sara, trudieggia, devi trudiare, come fa Marina. Ah, così fa di Marina. La signora trudio, tu. Gesù Maria, ma trovi però, ma che riesci a farli? Sono tutti corbi che sentirsi di aria, lo sai che tu. Ma questo sta di Riccardo, va vedendo. L'apparenza inganna, tu. Ehi, tu la senti tutta di Riccardo, quando parla. Tutta in italiano, perfetto. Ma non è per la sassarese di Marina, capito? Un televisore, tu, Brumotti, un televisore se ti serve. A capo vorrei, conto. No. Vabbè, ma che rivedi, vabbè, telecamera, vabbè. E su Maria. Messi così, mi. In mezzo al garraggio, in mezzo ai buchi usi fatti. Vabbè, la scena, vabbè. Cazzia. Per carità. Comunque, chi si che intende tu, Pompo, chi intende tutti i passati, Rusono, Baccari, dai, che se no non vi so buono in una trattanna impianto. O se no, come ti chieda, cazzo, che pare, non è che pare che intendi, no, pare che intendi dentro la cattedrale, vale. Quelli non sanno usare il mixer, impianto, non ti preoccupare. Ma chi ha già? Ehi! Sì, quello già lo so anch'io, non ti preoccupare. Io ho anche detto, c'è neanche tu, non è che non c'ero io. Io ho detto davanti a te. Ha detto, ma perché cazzo ho detto tante cose con le cose? Scusami, ho detto. Non ti offendere, gli ho detto, ma sei trovata come una campana, gli ho detto. Così gli ho detto. No, magari no, non è che non sa neanche cantare. A cantare già sa cantare un po'. Però non è già trattato mixer, da me va un vecchio lem, va, ma dove vuoi andare? Ande che tu non che tu hai comprato questa cosa. C'è cosa che canta bene, quello cocorino che abita al monte, prima di arrivare a casa di San Vedio, quello è in gamba, quello canta a Portamura, d'estate, quello sì che è in gamba, non c'è bisogno neanche di leggere niente, prende e canta per i fatti suoi, è in gamba, veramente in gamba, è l'unica persona che sa cantare bene, io l'ho sentito, l'ho visto, non ha avuto bisogno né di televisore da 2 pollici e tanto meno di 40, quindi figurati tu, è l'unica persona che c'ha il modo, c'è il corino. Sì, che già lo conosco, io non, cioè la verità non riesco a cantare da cosa, da, cioè proprio di merda, da, non ti si chiama, da Angela, no, non ci sono più andato perché non riesco a cantare un ghiso karaoke, cioè non andava, per me non va bene. Non devi mai di cantare, scusami, non puoi fare proprio niente. Cioè sono i locali quando fanno il karaoke, non ti preoccupare per quello. Fregate, non è che devi andare a cantare il basso, no, scusa, Quindi quando fanno il karaoke e lui ci dà, è come la, giocare, come ti posso dire, a statico, cosa del genere. A un certo punto ognuno canta per i fatti suoi, dopodiché si farà il migliore, no? Diceva quello. E non è che per forza devi cantare per farti vedere, non esiste. Quindi fregate, non è successo niente, anzi, io sono contento, la verità, perché quella è stonata, ma dovevo cantare meglio, ma tu non usavi l'ecco, ma lei usava l'ecco per tapparsi i casini che ci aveva, dopodiché già lo sai che ce l'ho buttata fuori, quindi a un certo punto cosa volevo fare? O scegli uno o scegli altro da lavorarmi, non so qualcosa, non sai fare uno, non sai fare l'altro, fatti quello che devi fare e te ne vai a fanculo, così gli ho detto, e ci hai buttata fuori. Mi pare che mi hanno detto che si applicava la bezzona, mi hanno detto qualcuno in giro. Quello che vuole faccia, a me non me ne fate niente, a me non mi è niente, non mi interessa, già lo sai. L'ho già detto dal primo giorno che eravamo assieme, ti ricordi? Poi, cazzo, a ce l'ha fatto a cantare, ha detto, con l'effetto eco, ha detto. Ma tu quanto, c'è bisogno di dirlo, cosa del genere, perché io ascolta, io detto, sono un tecnico, se permetti, io detto, a me questo schifo non lo voglio sentire, se tu vuoi piacere a fare fissagliati e per pigliati, se c'è 50 euro in mezzo sono cazzi tu, io detto, a me non me ne sbatte nulla. Cosa vuoi qua? Ma guarda che io ho sentito a cantare così mi già è un po' cappaccio, già è un pochettino cappaccio, la verità già è così mi, se come vuoi cantare vero vuoi fare un gabacca come, non è che, cioè, io non è che conosco tutte quante le musiche, cioè, non è che so cantare tutto. Però se mi metto d'impegno, mi duca già lo sa, se mi metto d'impegno sono capure amare, mi, cioè io ci riesco bene, e per la mancanza di tempo e cose, capito? Mi diglielo quante persone c'è un altro giorno, e se mi hanno fatto l'applauso tutti. Via, è vero, è vero. Cioè, cantare non è facile. Non è facile, no, perché devi studiare il brano, devi studiartelo prima a casa, poi non fa figura in cazzo, capito? Devi studiare prima a casa, devi ripassare, perché non sbagli più alla fine. E si conferma. E tu che canti già, lo sai, lo sai meglio di me come funziona la cosa. Adesso sto studiando uomini soli, sto studiando dei pubblici. Beh, bella quella. Ma sto studiando bene a casa, piano piano. E poi devo studiare anche un'altra canzone. Anche gli angeli. Quello che contava Morandi e quello che è morto, Lucio Dalla. Sì, anche quella è bella. Piano piano sto studiando, sto studiando. Però non è una cosa facile, non è che uno si muove. Se ti vuole tipo beccaccino, cazzo, che così tanto, o qualcuno che nelle parole cioè non riesce. Una cosa difficile. Ho cantato quella canzone più su di Renato Zero. La conosci, Antonio? Sì, già la conosco. Vabbè, Renato Zero, già lo sai chi canta con Renato Zero. Dico che sono io a creare Magone, quindi figurati. Ma uno è perché uno è Magone. Uno perché gli piace la canzone, gli piace. Non è proprio uno è Magone. non è una cosa facile, dimmi, devi imparare i pezzi, devi riprovarci, riprovarci ancora, poi alla fine ci arrivi a farlo bene. Per fortuna io sono organizzato qua a casa, se è stato un casino, figurarete di pazzia. Sì, vabbè, non la conta, non è che se non cico, anzi, quando diverti va bene a un certo punto, non è che sei cazzo, metto una platea che ci sono, ti posso dire, 200.000 spettatori catalani a fare figurare in mezzo davvero. Quando vai in circolo, cazzo, quindi ti diverti con la bimba furti. Però si imparano, diceva quello. Incomincia a conoscere la musica, eccetera, eccetera, e come cantare, c'è gente, cazzo. Oh. Piano piano bisogna fare le cose, non è che sei studiato, lo sai anche tu, la studia, cioè la musica bisogna studiarla, perché altro. Non è che fare cose così. Allora, il problema è questo, un conto è fare un circolo di Grossantino, nei circoli così, un conto è, cioè, un altro conto è andare al Giusti Club di Via Sardegna, che è il doppio di quello di Grossantino, cioè è il doppio della gente, nel caso ci vogliono coglioni a cantare, a me, quando vedo gente nuova poi, comincio a tremare, comincio. Però poi ce la metto tutta, ce la metto, capito? A cantare quel brano. È una cosa molto diversa, Io sono andato in busi dove c'era parecchia gente, Cioè, un conto è sedersi, ricordo che sei 4, dico bassone, dici bassone, un conto era venire più di 40 dentro. Cazzo! Le cose sono un po' diverse, sono. Guarda che questo problema non ce l'hai solamente tu, siamo tutti i cantanti, tu ricordati una cosa, tutti i cantanti prima di andare su un palco, che ci sono 24.000 persone, 100.000 persone, per dire che tu stai, anche se canti bene, ricordati una cosa, hai bisogno di bere, o ti bevi l'acqua vite, o ti bevi whisky, e quello che è, il discorso è quello, deve essere mezzo cotto per poter cantare bene, il discorso è quello, se non ti viene il cazzo di cosa, l'attacco di panico, e così fanno tutti, perché è vero, e già lo sai anche tu, l'ha detto Vasco Rossi, l'hanno detto tutti, Paola Pausini, eccetera, eccetera, quindi se tu vuoi cantare bene, devi bere, il discorso è quello. A un certo punto, se no sei morto, sei morto. Non è che quello, è che devi farti coraggio, ti aiutano a sbagliare, capito? Anzi, devi farti coraggio, devi farti e basta. Avanti lui. È vero, però chi lo fa proprio, cioè lo fa sempre, sempre, ma è anni che lo fa, mica niente per loro, capito? Non ci fanno caso a queste cose. Invece per noi sì, ci viene un po' di, sai, di vergogna, dai. Magari hai paura di sbagliare, hai paura di steccare. Tu immaginati cazzo a cosa? Vasco Rossi, e lui diceva cazzo, prima chi entrasse a cantare, prendevo, dicevi, pigliavo un whisky, ha detto. Quindi a un certo punto, per avere più forza, hai capito? E la stessa cosa, ti posso dire, se tu vedi una persona, si è innamorata, eccetera, eccetera, non sai come fare, prendi, ti bevi una cosa, tanto per avere più forza. Il discorso è quello. È proprio così, il discorso è quello lì. Tutti, ricordati, tutti i cantanti bevono, ma non come se facciamo di coca, ma però bevono, non c'è uno che non beve, questo è poco ma sicuro. Magari tirano, magari si fanno qualcosa, e uno lo fa. Tu figurati Maleschi, secondo te Maleschi adesso, dimmi tu, con tutti questi concetti che fanno, uno per uno, non si sono fatti di coca, cazzo. E tu già, già lo sai, già te lo ricordi Luca, hai conosciuto a Pietro Foto Magico parecchi anni fa, che faceva il pesaro rituale. Il sabato domenica dovevo stare il 14 meglio tutto il giorno, cazzo, per due giorni. A un certo punto ha preso, cazzo, si faceva mandare la coca là fuori, capito? E l'ha rovinato, l'ha cremato là. A lui anche l'altro socio. L'ha crepato tutti e due, l'ha crepato. Facevano le serate, il sabato domenica, più lavoravano, cazzo, come si chiama, chi in banca, l'altro faceva, mi sembra, il medico, cosa del genere. Tutti e due crepati, morti tutti e due. Quindi ce l'hai mandata via quella lì. Però ti la vedi tanto, quando bevi ti aiuta un bel, no? Un po' sì. Ma dipende, molte volte bevono e commetti che la già bidueva. Non mi fa più niente. Dipende come mi trova, se mi trova giusto allora sì. Vabbè, ma se cosa, quando sei un po' incicciato, non pensi a niente, mi decanti, la te ne affutti. Anche se sbaglio non te ne frega niente, però non mi fa così. No, preferisco non sbagliare, capito? Vabbè, è tutto un problema mio. È tutto un problema mentale, il discorso è quello. Se vuoi cantare bene, però sai cosa è più che altro, ti viene di andare per dire cantare adesso, dice stavolta per fare cantare eccetera eccetera, cazzo, ci pensi, cazzo, prendi, cazzo, ti viene in panico. Quello viene a tutti, addirittura, hai capito? Quindi non è che deve vergognare, lo sai che bevono tutti. Tutti bevono, la Mazzuti, tutti i cantanti hanno bevuto, lo sai anche tu. Anzi, metto quote anche sul palco, non solo l'altro. Eppure cantavano bene, dimmi quello che vuoi. Vabbè, a parte qualcuno che magari è strappato, ma comunque sia, tutti i cantanti bevono. Se non bevono, non sanno cantare, il discorso è quello. Perché ci sono 20.000 persone, 1 milione di persone lì allo stadio, cosa del genere. Come fai? Adesso, specialmente cazzo, che c'era il lockdown, e ritorna l'uomo come prima, tu non vedi gente cazzo pigliandosi pastiglie e cose del genere, te lo dico io, ma lì si sono cazzati, secondo me sono cose che non vanno bene, assolutamente, perché tu non ti puoi, ma sei un po', no, non ti puoi fare così feo, assolutamente non ti puoi fare così, perché io si bevo ma non esageratamente, tanto se bevo di più e mi imbriagheggio, poi no, non riesco a cantare che mi si ingrugheggia la bocca. Ma non è quello, però non è che mi piace ubriacare del tutto, no. Sono appena incerinata, almeno hai capito? La lingua cammina, il discorso è quello. Lo fanno tutti, lo fanno, lo sai che tu. Quindi, se no a quest'ora, oia. Io ho già compreso ancora una cosa. Cioè, vengo chissà, secondo alle volte. Vengo la birra non mi fa tenuta, non mi imbriagheggia. A quanti te cosa vuoi ti dica io? No, a secondo delle volte, magari se sto tutto il giorno lavorando e cosa che mi smaldisce, bene, poi magari andavo a birra la contadino, cazzo, è un po' careggio. Intendo l'effetto. Ma sai quante volte magari non è che sei cotto, diciamo, smonto, diciamo quello, tanto per dire, che sei, come ti posso dire, leggermente allegro, sai come può tirare l'ombra, cazzo, e ti diventa leggera, cazzo, buongiorno signora, mi ha portato la bombola, no? Via solo, tac, via te ne vai. Poi dopo di te vai in un'altra, eccetera, eccetera. Sai se indica, se indica cosa. Succede così, per piano. La mente in pratica ti rende una cosa più leggera, anche se è pesante, ma ti rende una cosa più leggera, il discorso è quello lì. I vecchi bombolai ne avevano molto, per non sentire la fatica. Grazie per dire, non è solo quello, no? I cavieri, prima di tutto. C'è una gente, cazzo, ma c'è una fila che non è neanche l'idea di quelli che bevevano prima, la mattina. Figurati tu, ci sono cavieri, ci sono i... come ti posso dire, i tassisti, eccetera, eccetera, e poi, come ti posso dire, adesso non è che mi viene in mente tutti quanti assieme, ma i tecnici che salivano su palchetto, sali su, cioè per dire, possiamo aggrattarcelo, cazzo, non è che ci sali cazzo con un caffè, no? A un certo punto ti devi pigliare il collo, salire sopra, insomma, una parabolica, pensali, la piazzi e poi scendi giù, sei tranquillo, boh, e ti passa la paura, hai capito? Cosa vuoi solamente per quello? Più che altro, si chiama panico, si chiama, capito? Micropanico si chiama. Da stadio, da quello che è, da lavoro, quello che vuoi. Comunque si chiama panico, si chiama. Ma il suo grattacielo nuovo non vi bubuni più nulla, manco una uzza. E tutto il ripetitore sopra, andi a alcune antenne. Guarda, io sono salito, devo tu dicendo, sono salito lì a grattacielo, in pratica con la scala verticale, ma verticale davvero, fino a sopra, e con la nausea che non ti dico niente, sotto scendere in giù, prendermi la birra, bevi una birra di tutto un sorso, e salire sopra a fare il lavoro, se no non ci riuscivo, perché mi stava avvenendo cazzo di cose, il bombo stava avvenendo. Ti vedevi cazzo tu il palazzo, immagina tu il palazzo cazzo, che tu sei fermo lì, perché lo vedi oscillare di 5 cm a destra, 5 cm a sinistra. Tu cosa avresti fatto a posto mio? Dimmelo tu. Ma con quelle antenne strane, Antonio? No, sono stato sopra, più che altro, non antenne strane. Sono stato con l'antenna della TV, per stare a questo signore qua. Però quando io salgo sopra il tetto me ne sono accorto che c'era infatti questa oscillazione strana, a un certo punto cazzo mi veniva a vomitare, allora sono sceso giù, mi sono bevuto la birra, io e il collega eravamo assieme, immaginati tu, e siamo saliti sopra tutti e due. Quindi per poter installare questo impianto TV, se no, umani, ci eravamo riusciti, e prima mi sono portato via il coso, la verità, c'era un clic che c'era sopra, buttato, me lo sono portato via io, e poi un paio di altre cose. Un clic, che clic? Un clic, per sollevare i cosi, i talici. Vero. Ma mi sto guardando un video, una diretta su TikTok, quelli che prendono i container, cazzo può venire in alto. Mamma mia. Sopra la faccia di testa castello, a vedere come ti senti e ti fa il video. Tu all'inferno, per dire, e poi in pratica il video si sposta di 5 cm a destra e 5 cm a sinistra, a seconda del vento. Così, e poi senti cazzo questo odore tipo gasolio che ti nausea, hai capito? Figo l'ha detto, non l'abiti io, devo fare l'affare. Secondo me è pure quei ripetitori che ci sono di sopra, chi si ti pigliare a Bavia, cazzo, mia madre che le venga, cazzo, il kit del traliccio ti sei preso, non ti accade. Certo, mica lo lasciavo lì, ma sono andato via io. A parte la scala verticale, messa dritta, sai cosa vuol dire? Tu prendi, ti agganci e devi salire sopra le antenne, il coso, eravamo in due, eravamo a fare con l'impianto. Più, cazzo, scendevi i cavi giù, cazzo, non te lo dico nulla, io ti parlo degli anni 96-97 qua, lì. Ci sono quattro ascensori, ci sono. E devi chiedere, cazzo, il permesso, cazzo, al coso, giù, e poter salire, se non, cazzo, ci sali. Ho capito, ma negli anni che furono lì, non c'erano tutti quelli antenne ripetitore, non sei salito tu. C'erano tutte le antenne di radio, poco della TV, c'era tutto lì. Io sono uscito a piazzare l'antenna TV a questa signora col corso, sono andato a fusare, ho detto guarda, mi si è aperto un filtro, per cosa? E ho detto guarda, ho puntato in qualsiasi punto di letto, eppure non vedo niente. Allora mi ha dato un filtro, la verità si era Giovanna Buonanima, era perfetto, hai capito? E potevo vedere la TV questa signora qua. Poi la verità non ci sono più salito, da quando lavoravo, ho lavorato più che altro con anni fa per Prospero, che è morto nel 96 è morto. Ho capito. Ti stavo dicendo. Altezza è un bel. Ma perché non faceva nulla? Per quale motivo? Troppo forte il segnale. Tu immaginati un quadrato, quanto casa mia, tutto pieno di ripetitori. Figurati, tutto quello che c'era. Non volevi nulla, niente, ci volevano per forza il filtro, ci voleva. Infatti se l'ho fatto, anzi se l'ho anche adesso, lì a Cataceno, c'è una VHF che in pratica è installata sotto, due piani sotto, se non ti bene, non è messa sopra, è messa sotto. Tiro il mattone, non so chi cazzo sia. Mamma mia! Tu immaginati, cazzo, radio private, TV private e cose del genere. A un certo punto, come cazzo fai? Qua se avessi avuto l'appartamento di lì, sta tranquillo, se avessi installato un'antenna lì, di là sopra di ripetitore, cazzo, di come privata una lampada, ma sei stato uno dei più forti a Sassari, te lo dico io. Perché era di sopra la vedi tutto, sai dove vedi tutto. Non c'è niente che ti ostacoli, è una cosa veramente bella. Il problema è che ti vedi che il palazzo si muove. Tu vedi, si muove di 5 cm. Hai capito? Magari Piazza Rosario è meglio, non proprio lì, perché lì è un casino. Vabbè, Piazza Rosario c'era la Buonanima lì, cosa c'era, adesso non trasmette più. C'era quella privata di quel Beccamonte, ma adesso oramai anche lui è fottuto. Non trasmette più, meno male. E quindi siamo a posto. Aspetta un minuto, sta arrivando subito. Dominante proprio, Antonio, dominante io dai Kiwi. I Kiwi ti basta pure un'antenna piccola, non tanto grande, e arrivi dappertutto. E no, su Cataceno. Ecco una boomerang basta a me. Non una boomerang. Una Grand Play, e tu sei a posto. Ero piccolo a tutti da lì a Trocchè, cazzo vuoi in alto, mamma mia. quello di via, qui a Leon Cavallo è più alto, mi sa. No, via Leon Cavallo no. Il più alto è quello su qua, no? No, non è così. Sì, sì, non è sto parlando di quello, dell'Antadoce, capito? Via Leon Cavallo è l'altro. Secondo me quello di via Leon Cavallo è più alto. Questo di Sassari sì. E ma lì è un casino, come è fatto? Più di ripetitori, antenne, un casino. Lì non va bene, no. Dietro Rosario lo puoi mettere, nell'altro più, nell'altro grattacielo che c'è vicino. Lì sì. Sì, ho capito, lì sì, sì, sì. Quello di via Brigata Sassa, eh. Eia. Solo che verrai, non è che verrai tanto lontani, no, che si ripetitori, non lo so se quella cosa lì dà problemi poi. Non ho capito, dà problemi? Ti dà problemi di, cioè ti manda spurie, mondezza. Non c'è questa antenna, secondo me sì. Casino. Non volevo parlare neanche la televisione, ma figura che tu. Quindi a un certo punto l'antenna è stata installata, quella di Borghese che ho visto io, forse pure io. Due piani sotto, sei quasi e nel fianco. Sì, no, lui esce il capo, non è possibile che... Cioè, mai tutti quanti che si grossi, insomma, è un capo, no? Però secondo me non sono neanche tanto salutari, eh. Ne vorrei io all'ultimo piano. Sì, vabbè, c'è la TV, di ripetitore TV, pure di ripetitore radio, eccetera, eccetera. C'era di tutto di più, quindi... non ci può fare proprio un cazzo in teoria. Io sono salito qua, c'avevo un mal di testa, non sono salito sopra che non te ne dico niente, proprio mal di testa. Dopodiché a un certo punto tra i fumi delle, perché ci sono sempre le, io sai che c'è la cucina sotto, questo non lo sapevi tu, c'è la cucina in pratica, e quindi sentivi questo cazzo di cosa, di gasolio, a un certo punto era un proiaio. Ma sono cose allucinanti, sono. Ma so che all'ultimo piano però c'era radio, cioè mi pare, qualche altra cosa. Non ce n'è abitazione. C'era la radio, infatti, che... Esatto, sì, bravo, ci sei arrivato. C'era la radio. In pratica trasmettono da lì, ci sono i cose, trasmettitore e ripetitore, ci sono. Sono tutti di poli, se hai guardato bene. Quindi figurati tu. Latte e miele c'è lì sopra, se non mi ricordo male. Poi non mi dice, ma... Cioè, no, nel piano più sotto cominciano le abitazioni. Sì, esatto, sì. Gli ultimi due piani sono stati fatti tutti in coso, modificati, infatti, l'ultima volta, da poco, mi sembra che sono 2 anni a questa parte. Chiappa, ma poi l'imbriaco da visione che vera in chive. Cazzo, chi sono trasmettitore, chissà quanti kilowatt scende. Cioè, ti puoi immaginare se non ti imbriagheggia quando ci andate sopra. Ma le cose elettromagnetiche. Infatti, guarda, se fosse stato quel periodo lì ti avrei fatto portare la bombola sino a su, te lo dico io. Sarebbe arrivata da sola. Ce ne sono ascensori lì, però. Ci sono 2 normali e un montacarichi. Andiamo, andiamo! Via, mi pare che a Rosario sono 4, non me ne ammento, ma secondo me che non ci vado, prima andavo sempre, andavo a Ricardombo in Chivi. Ma sempre quel grattacielo che c'è Santa Maria di Pisa, ma è tu che crea molti problemi, crea a livello di fulmine. Siamo attaccati avanti una di là, qua non c'è problema. Se va bene un po' di corrente elettrica gratis, basta installare una mantova e mettere la massa a terra all'ascensore e non c'è problema. Come la massa a terra all'ascensore? Ma te lo sto dicendo io. Ah, per non prendere il fulmine. No, non per prenderlo, per caricare un pochettino. di condominio. A me c'è una luce elettrica gratis, siamo in Europa, 15 anni. Perché Antone? Per quale motivo mi stai dicendo questa cosa? Perché il fiume è sceso lì. Quando ho pensato a Manto Vaio, insieme a Gianni Bravo 2, abbiamo stato due in pratica. Due caselli, il palo, la Mantova, e dopo non mi ricordo adesso 6 mesi, un anno, quello che è, sceso il fumo e ha spaccato l'antenna in due, l'ascensore l'ha crepato in due, tutto il circuito ha crepato in due, quindi fino a giù, sotto quel palazzo è pieno di acqua, serve acqua. C'è la fonte dell'acqua sotto quel palazzo lì, hanno in pratica costruito sotto l'acqua, il discorso è quello. Che sciughe, di cosa pericolosa per me. Già lo sai anche tu, lì, quelle due palazzine, dove abita Mario Mansola, se l'indica cosa, è tutto acqua lì, c'è la fonte dell'acqua lì, è tutta acqua sotto, tu fai un buco e c'è l'acqua sotto, ce l'ho anch'io in campagna l'acqua sotto, lo sai, è sotto la casa di campagna, quando io ho fatto il buco per poter costruire, c'è buco, chiamo buco, chiamiamo così, va, comunque sia, abbiamo fatto il perimetro per poter costruire la casa, io quando siamo arrivati a 2-3 metri in pratica dal terreno di sopra, a sotto ho trovato l'acqua, era tutto terreno calcareo, quindi era tutto quanto pieno d'acqua, quindi a un certo punto quando mi stavo davanti nel baracchino c'era una paura, che non te ne dico nulla, hai capito? Sotto è tutto pieno di acqua quella zona lì, tutto, fino a arrivare a, come si chiama, dove abita Mario Mansi, tutto la croce, è tutto pieno di falde di acqua. Perché dove c'è la chiesa nuova c'hanno una pompa per tirare, mia, lo sai, lì c'è acqua lo stesso, ma io non capisco perché non viene utilizzata quest'acqua, cioè potevano utilizzarla almeno. E perché sono alla chiesa che c'è lì a Santa Maria, la stessa indica cosa, dove c'è in pratica la banca sotto, basta fare un buco. Lo sai quanta acqua c'è, cazzo? Già te lo ricordi che una volta si era allagato tutto, si era allagato. Non costa nulla. Se vogliamo acqua, acqua, Sassari, ne ha quanto ne vuoi. Possiamo stare anche 20 anni senza l'acqua dall'acquedotto, figurati tu. Un bel ce n'è, Antone, un bel deva. Qualcuno è che chi su dell'albergo non l'ha acciappato da Roma a Tessi, però quello io te la utilizzava lui per l'albergo, ha trovato il fiume sotto. Ma se avete trovato l'acqua minerale, tanto per dire, in campagna, sapete, quello non avrei fatto l'acqua San Martino, avrei fatto l'acqua San Pompino, avrei fatto, cazzo. No! Un pesolare. Sì, ma tu vedi tu che intendi, se che tocchi se lo vedi, a ti misci a vivo però. Tipo un cacino, Peggio, marri cinghiale. Questo fa una barra, tu, ma è un bel robusto, un bel. Marri come te lo bucravo, va. Marri cinghiale, a vero, mi sto scherzando, c'ha c'ha 16 menti. Guarda, ah, secondo me che c'è il capo di radio, l'invasia mare di fazia con chi do capo, non mi ha dato più problemi che sono capo a me, secondo me andava male. Non è più scesa di potenza questa radio. A volte capita magari una fesseria, capito? La radio dà problemi, comunque sia. Io ho cambiato il filo, ho cambiato perché non stavo andando. La banda, beh. E se rimane da bucravo, vaghi su. Perché è il personaggio. Intanto guadagnerà soldi quello la faccia tua, più vai su, a vedere cose, il video, e più guadagna, fatta pezzi. E cosa guadagna? Un po' di bernacchi? No, guadagna soldi, ya lo sai, qui ci sono i follower, ya lo sai, a un certo punto uno può dire, dice, voglio pubblicità, ciò per dire 500 visualizzazioni al giorno, tanto per dire. Figlia e se va di là, fatta a macco. Già lo sai anche tu come funziona sul computer. Più coordinate fai e più vengono visualizzate e incassi soldi, il discorso è quello. E ti fai di là, come fanno in cosa in Brasile, in cosa, nella Repubblica Dominicana, che fanno vedere questa cosa da infilare dentro alla gigia delle donne, cazzo, ma la cosa assurda. Mi sono andato una foto, è incato la gente la guarda. I follower sono quelli che contano, non hai capito? Poi scrivono, voglio pubblicità, e in pratica li arrivano. Se vengono pagate, hai capito? Non è come noi che siamo fessi. Ma Luca, ma è un personaggio, Cazzo pare un bucravo, un bare. Mi sa che se... A voi adesso la metto. Ah, carità, sì, signor Pippo, diciamo, oppure signor Pippo. E ha detto, ma canti Rose Rosse, ma cantenti. Cantemi a me. E la mai ti faccio furruggiare la gamba. Cosa rimane cazzo di sul sacchiotto? Cioè, va, meglio così vintingato di... Io gli sono cantato da Gozzo, passato un attimino, da Gozzantino. Ho bevuto una birra di quelle piccole. Perché mi sono dimenticato di bagavira, ragazzi, non mi ha mandato un messaggio, non mi ha portato una birra. E ti ne fare alla mazza, l'ha giudito. Cazzo, cazzo, quando ti vengo te la bago. Che per dire, sono andata e gliel'ho pagata subito. Ma per dire, cavolo, che sei bloccato a cantare di là. Ma chi questo? Costantino. Ma, quanto fa stimare a 2,20? Tu mi manca 2 euro, quanto fa stimare a 2,20? No, hanno aumentato tutti, lui. A che cosa ha aumentato? L'ho aumentato un po' tutti. No, ma per dire, cavolo, no, cioè per dire, cioè me li sono dimenticato, non è che non gliela volessi pagare. Cazzo, mi ha mandato cazzo un messaggio, mi ha pagato la birra. Cazzo, ha detto, cazzo, allora ti devo dire pure un cazzo, paga mille di cose. Non me la punti nulla, però, cioè, non andavo così, cioè. Sono da Ganga, buonasera. Che rincoglioni. Eh sì. Alpe. Ciao, no, anche ascolta, se sei dimenticato di pagarmi la birra, ok, ricordo di Costantino. Ah, ti ammazzate della birra. Cioè, ma dico, potevo dirmi... Vabbè, bisogna andare, potevo anche lasciare, poteva dire, vabbè. Ah, Bruci, ma quando vieni, cioè, non fa niente. Cazzo, ma non mi va, cazzo, ho già mi 20.000 busti, non ti rispondi. Non gli hai pagato la birra, cazzo, ti manda un messaggio. Segui, dico io, guarda che io birra non te ne pago, gli dico, vai a fanculo. Ma guarda, ci mancherebbe altro, io sono un signore, non è che... viaggio veterinario per la pago. Ma infatti già gli ho detto, cazzo, da canta chi sa niente, è strana che è giunta, che non sta pagando un cazzo proprio con me, cose, delle cose strane. Vorrei dire, allora, ho preso un caffè, qua al Monte, e gli ho detto, Andrea, to, pagatelo, e non c'ho il resto. Ho detto, vabbè, dai, non me lo segna, già te lo pago, non è che... Cazzo, là di dentro, qui c'è un mio padrone, un signorino. Lui mi ha detto di magà. Ho detto, boh, perché? Guarda, forse un caffè. Che cazzo, cioè? Non ha saltato i cazzi niente di magà, un caffè. Ma stiamo scherzando. Oh, ma siamo a buffonendi. Ah, è meglio che mi sto zitto, va. Ma, a molte volte non mi devo affanculo, vedi? Poi anche per tutte le disponibilità che uno può dare, anche una birra che una birra, uno può dire, ma va, cioè a me mi sono più dimenticato, va bene, mi sono più dimenticato, però uno si comporta anche così, può dire anche, ma va, lascia perdere, non ne dico nemmeno. Vabbè, comunque. Si dice praticamente cazzo dice mi chiami da bacchi non mi vado a pagare un caffè da tra tutti i mondi a rimaga oh ma di cazzo se me non la giù buffi come e c'è per rimagare due col signorino cazzo e chi me ne fa due guglione a voi quando ha cavato di più la situazione che ha preso la voce a Marina allora da lì proprio mi ha scelto al cazzo. No, se bisognava mal culo. Per carità, vai due da niente da trave. Poi cazzo dice per domandendi, pensa amichito, te che era un gazza, va. E le cose mi dico un pareggio, capito? E non le guardo queste cose, perché io le cose le pago. L'abitatore che ho pagato quasi 200 euro. E te lo blizzo, non so con chi va a rimuginarti un euro di caffè, capito? Ma la volta che era già fatto la cosa, la serata. Abbiamo spendato un po' bene, ha detto villaggio di pagarmi. No, te. Ah, l'hai compreso, sì. Ah, va bene. Hai l'emosinato un euro di caffè, ma te ne dico. Ma molta gente che veniva lì, fuori da grossi, boh. Hai detto così. A chi più nanni più ne buoni, capito? Oh, via, per carità. Ma ne un bel mangiare a mezza, un bel venato, comunque. Io gli attrezzi me li compro, li ho comprati con sudore, non me li ha regalati nessuno. Io attrezzatura ne ho, se non fa un lavoro ne ho attrezzatura, non è che non ne ho. Cazzo, ma ti c'è? Abbracciamo per te che è meglio, va. Sto qua gente strana, c'è. Come quello mi ha fatto, io so cos'è. Poi si divertono, ho capito, sputtano di soldi qua, soldi là. Se ne fanno zone belle, capito, piscine, quella, poi me ne ha detto tu mandi i cazzo mio da selli, o ti metti, o tu vuoi passarmi il trappo, o passarmi quello. Svegliatevi! Ma il concetto è quello, poi molte volte uno fa un caffè, lascia perdere, allora che sta birra è dolce, io me ne gioco di zingato, non te l'ho fatto apposta, perché lui lo sa benissimo che io aggiungo sempre pagando, sempre. No, non ne puoi dire cazzo ho un debito con me. Io ho sempre fatto i soldi. E dopo di là di furo. Potevo dire così. Potevo neanche, anche non dirmelo poteva. Poteva anche non dirmelo. Questo è successo oggi? Ieri. Sì, ma piaglia la pagherai, cos'è, ma quando l'altra volta lo stesso non c'avevo arresto, tu me li passi. No, aspettate un po', aspetta, ma ce l'hai il resto adesso, tu pagatelo. Se ho preso un'altra birra, non mi ricordo, ma l'altro il resto l'avevo pagato, non disegno quello di Gossi. Chi ci va a segnare? Comunque io so che la birra da nessuno aumentata, da nessuna parte è aumentata. Sempre a 2 euro. No, già aumentato, già. Molti l'hanno applicato. Dei Gossi già, l'hanno pagato da 1,20 euro da Gossi, da Giuseppe. No, io ti ho pagato, io ti ho pagato io, non ce ne ho problemi, capito? Ah, ma già ci ho fatto due lattini a buon prezzo, da lo spino. Mi tengo un po' in frigo e ti abbi in culo. Però fa poco di non mi vedi. C'ho già la birra in frigo, ma sti nuda. Ma non è, allora le cose così, sapendo che io ti ho trattato in un modo, però lei qualche volta di buon cuore, lei sto parlando, cioè sapendo che ti ho trattato, cioè trattato in diversa maniera dagli altri, puoi anche fare una cosa, non lo chiamo neanche, capito, lascia perdere. Sì, vabbè, comunque. Ma ho visto, io ho visto cose che non dovevo vedere, lasciamo perdere, va. Non si fa così, non si fanno i travasi di altre cose quando non è quella la cosa da bere, capito? Non dai, avanti, si cose, no. Ti domando una cosa, ma invece non è chissà, sei molto altro dentro, non andava bene, non va bene, molta gente lo fa, molta gente, tipo limoncello, non è limoncello, è il cazzo limoncello dello spin. Ho visto anche un bar facendolo, con i miei occhi. I bari, con il milis, gli chiedi un milis, invece non è un milis, è quello dello spin, che è preciso, lo sto bevendo io. Lo sto bevendo proprio dopo pranzo, là. Oppure magari non lo bevo a pranzo, lo bevo a cena. Tipo a cena non ne ho mai avuto oggi. Dopo poco. Ed è uguale, mi ha detto, è uguale. Magari lo fate da bellissima essere. Non è che non è la cosa, non cambia, perché molte fabbriche lavorano per quella cosa lì, però non è giusto via paura, niente, bura che te le paghi. Io c'ho un bar a Sassari che lo fa al 100%, non posso dire il nome perché è cliente nostro e quindi non voglio sputtanare, ho visto io con i miei occhi. Vabbè, comunque non è vinco, io si vinco più con una cosa originale, non una cosa non originale. Se permetti, no, una bottiglia di crema di whisky le vostre costa 4 euro e rotti. Tu pensa, una della Mazzimana 2,50 euro, te ne mette una, vabbè, per modo di dire, te ne mette poco, te ne mette due e si è pagato già la bottiglia, il resto è tutto sgombo, capito come funziona? No, tu devi dare una cosa buona, se la paghi ci guadagni, però devi dare una cosa originale, non una cosa che non è originale, capito? Vabbè, pomponi, avanti. Sono qui, sono d'accordo. Quindi queste cose le ho sempre adesso. Quindi, a un certo punto, so come funziona le cose normali e poi compatte dello spin. E sono al Lidl, il discorso è quello. Oppure mi viene una lattina di 30, una lattina da 33 dell'Eurospini, cazzo, noi del 50. Ma del tuo adesso se ho fatto comprare io la birra, non ti preoccupare. Grazie a Dio. Adesso c'è da la Weinberg che costa 46 centesimi oggi, quindi figurati con la limone. Chiamala? Radler, quella limone, 46 centesimi costa, dello spin, da oggi. Chiamala Radler, non Radler, Radler. e già va un comunque sia comunque sia va bene, e a limone leggera non fa male a nessuno, non ti ammazza, non è come quella verde che ti rende nervoso, che prendi una persona cazzo con un coltello lo ammazzi, quindi questa invece è leggera leggera, è tranquilla, se lo può bere quante ne vuoi, date acqua. Acqua e limone, anzi sto dimagrendo non solo l'altro, perché la faccia sta scendendo, la verità. Ah, sempre devo dire. Davvero, non sto scherzando, la verità. Con questa vita qui, la faccia sta diminuendo, perché c'è limone in mezzo, c'è più limone che acqua. Cioè, che acqua è acqua, la verità. Perché l'acqua è 1,5, la verità. Vabbè. Piano piano, la più leggera è quella. Già. Cioè, a 2 euro comunque, già guadagnano bene loro. Cavolo. Già guadagnano questi locali. Vabbè, adesso oggi è 46 centesimi, è lo spin, la verità si dica. Quindi è un'offerta. Figurati. E va che bene, poi c'è, vabbè, se vai al Conad, eccetera, eccetera, poi c'è, ci sono in pratica in chi usa, o nelle 20, o nelle 10, mai 1,09, mai di meno la verità. Però è sempre così, come birra, poi c'è la guerra, poi c'è il coso, l'aereo che poi la stessa identica cosa, ma è la stessa marca fino a un certo punto. Purtroppo è così. Bisogna accontentarsi di quello che c'è, di quello che abbiamo. È come la carne, quando vai a un certo punto, o la Kobe o la Rospi, la Rospi costa un tot. Se va l'acqua perché costa un altro, tanto per dire. Comunque vuol dire, allora, Rattler vuol dire, parola tedesca per ciclista, è un cocktail di moderato tenore alcolico, realizzato miscelando birra e limonata in parti uguali. E non ti fa nulla, grazie a Dio. E non ti svolta, grazie a Dio. Ti fa anche meglio, perché se bevi tonchinusa e se metto a cotto, se bevi una di queste, te ne toglie tutto, te ne toglie. E sei tranquillo. Hai visto? Perché c'è il limone che ti fa da... come si dice, il limone è... Madonna. Ti addrizza il pisello. Che si gioca a casa di limone? Cosa ti fa di addrizza il pisello? Ah, per quello la bivi pomputto. Quello che sta funzionando male pure a te. No, ancora no, funziona ancora, sta tranquillo. Non li uso io di Viagra, cosa del genere. C'è la paprika per sollevare il coso, e c'è la paprika che ha bisogno. Anche il capo di 14 al limite. Ti metti la paprika sul coso, sul mangaglio. E se ci metti il coso, aspetta che lo metto, una volta un amico dice mettici sopra il pisello, mi ha detto a dov'è la foglia, cioè del coso, che adesso lo usavano tutti la verità, e poi non usava nessuno prima, dicevano che non serve a niente con la foglia, con la gela, adesso mi viene in mente il nome, c'ho sul punto della lingua, fa il culo, con la testa grassa.